vuole essere un giornalista giornalista, un cronista vero. È il 1979, la camorra scatena una guerra senza precedenti. A dettar legge per strada sono le pistole, i kalashnikov, i fucili a canne mozze. Dal 79 all'84, cioè in soli 5 anni, i morti sono 769, una mattanza. A fronteggiarsi due veri e propri eserciti, la nuova camorra organizzata, la formazione storica di Raffaele Cutolo, e la nuova famiglia, un cartello di clan guidato dalla famiglia Nuvoletta, sempre più potente grazie alla loro affiliazione alla mafia siciliana. Ma per stringere Cutolo in una morsa da cui uscirà sconfitto, i Nuvoletta trovano un alleato prezioso anche nel boss emergente di Torre Annunziata, Valentino Gionta. Un ambiente durissimo, quindi, che Giancarlo Siani, giornalista poco più che ventenne, vuole capire e raccontare, mettendo, come vedremo, a rischio la sua vita. Ancora il pentito Fernando Cataldo. Gionta, Torre Annunziata, è uno quotale, un boss di Torre Annunziata, non era l'ultimo arrivato. Aveva una famiglia di 20-30 persone, ma tutti chi l'è, non erano persone, tutti mafiosi. Cioè, era un capoclan, però quelli capoclan che dicevano, che ci tenevano per gli uomini suoi, cioè, capito? Perché poi alla fine una famiglia, cioè, in pratica anche se non era parente a Giorno, lui non era parente a me, però era una famiglia, cioè, perché il Giorno ci è cresciuto un po' tutti quanti insieme da ragazzini, e io com'è? E lui conosceva mia madre, che conosceva la mamma di uno, cioè, capito? E lo Giorno voleva che lui stava bene, sempre uno che si è preoccupato di tutto. Se tu dovevi fare un reato, per esempio, dovevi ammazzare una persona, anche se andavano due persone a ammazzarla, però comunque John ti mandava 3-4 persone di copertura, cioè si preoccupava. Su questo lato io ho buoni ricordi di John, cioè, non posso dire che è una persona malvagia oppure una persona... Il progetto di John è un progetto di natura diversa, dice noi facciamo la malavita, no? Insomma, siamo, ci chiama la vita tutti i giorni, o le gas, quelle che sia, però per esempio... Noi dobbiamo fare 7-8 anni questa vita, poi dopo ognuno di noi che ha qualcosa di soldi, se aprono un negozio, un ballo, qualunque cosa che si poteva gestire i soldi, spocche, pulite, cioè così facciamo una vita diversa, non ci tocca più e facciamo sempre la vita però più pulita. Personaggio. Quando qui si facevano le sigarette, Gionta significava pure lavoro, in passato sto parlando, poi sono successe tante e tante di quelle cose, lavoro tra virgolette però, si capisce? Dunque abbiamo capito, Valentino Gionta è un boss deciso e rispettato, a Torre Annunziata molti lo appoggiano, tutti lo temono. Il territorio è saldamente sotto il suo controllo ed è qui che Giancarlo Siani, un ragazzo della Napoli bene, arriva per muovere i primi passi da giornalista del mattino. Così ne parla il suo collega Goffredo Buccini. Giancarlo aveva, per l'età che aveva, una rete di fonti e di rapporti che è difficile avere a 25-26 anni, e questo gli deriva certamente dall'impegno nella società, con i sindacati, con la gente più povera, insomma. Continua il racconto del generale Gabriele Sensales. Si affacciava in compagnia quasi tutte le mattine, aveva instaurato un rapporto di amicizia anche con i carabinieri che praticamente operavano sulla strada. Lui scriveva in maniera molto, molto seria, ma soprattutto onesta, diciamo. Qui a Radio 24 vi stiamo raccontando la storia di un giornalista giornalista morto perché voleva fare il suo mestiere, dopo la viabilità. Strade in diretta. Un incidente blocca la circolazione in A14 Adriatica tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Ci sono code per lavori sulla A22 del Brennero tra Campo Galliano e Carpi verso il Brennero, sull'Autosole tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Per un incidente le code a Roma sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la Via del Mare. A Roma fino alle 17, poi ancora dalle 20 in poi, lo sciopero del personale ATAC è indetto dal sindacato autonomo sul chiuse le ferrovie Roma Lido e Termini Giardinetti, regolarmente aperte le metro e la Roma Viterbo. Disagio anche a Napoli per lo sciopero dei tassisti. Noi torniamo tra circa mezz'ora. Mix 24, la storia. A Mix 24 continuiamo con la storia di Giancarlo Siani, un giornalista coraggioso in terra di camorra. Ma che uomo era Siani? Era un giornalista appassionato e rigoroso, era impegnato nel sociale, attento alla politica. Un ragazzo con tanta voglia di vivere e divertirsi. Si capisce anche bene dalle lettere che scrive alla sua ragazza. Ciao Chiara, e allora? Che ne dici degli occhiali nuovi? Oggi ho approfittato della convalescenza per scriverti e mandarti la foto. Questa spalla mi fa un po' male, i punti mi tirano. Stamattina mi dà un fastidio, porco cazzo. Vedi di fare bene l'esame, se no ti sputo in un occhio. Stai vedendo quelli della notte? È troppo simpatico. Come ti dicevo al telefono, vorrei fare un weekend lungo, fine giugno, forse a Ventotene. Se poi tu vieni a luglio, possiamo andare a Nerano, spaghetti con gli zucchini, o a Recomone, spaghetti coi carciofi. Siani comunque voleva fare il giornalista più di un'altra cosa. Non aveva raccomandazioni, era disposto a qualsiasi sacrificio. Aveva cominciato collaborando con la rivista Osservatorio sulla Camorra e con Il Lavoro nel Sud, giornale sindacale di denuncia, dove si facevano molti sacrifici, spesso si lavorava in nero e al massimo c'era il rimborso spese. E il suo sogno era arrivare al Mattino di Napoli. Siani è sulla pista giusta e ormai inserito nel tessuto sociale di Torre Annunziata, ha i suoi contatti e lavora a stretto giro con le forze dell'ordine, ma soprattutto ha capito qual è il cuore degli affari del capoclan di Torre Annunziata, Valentino Gionta. È il mercato del pesce, e lo scrive. Tra i soci delle due cooperative che lavorano al mercato del pesce spicca un nome inquietante, Gemma Donnarumma, moglie di Valentino Gionta. È il modo pulito per intascare il ricavato delle attività del mercato. Ma Gionta non ricicla il denaro solo con il pesce. Ancora il pentito a Ferdinando Cataldo. Giancarlo Siani c'era degli articoli sulla famiglia di Valentino Gionta, sulla moglie. Valentino Gionta certamente si è arrabbiato quando si è messo nel commercio con il negozio di firme peggiali, insomma, con i vestiti. Anche quella dei negozi di vestiti era una delle coperture per riciclare il denaro sporco. Giancarlo va giù pesante coi suoi articoli, mette alle strette a suon di parole Valentino Gionta e lo espone. In qualche modo Siani provoca la camorra con la determinazione e la continuità dei suoi articoli, poi alza il tiro, come conferma il generale Sensales. Giancarlo nell'ultimo periodo di permanenza sua a Torre Annunziata mi accennò anche che stava facendo un accertamento nei vari seggi dove vi erano state le votazioni amministrative a Torre Annunziata per fare un po' la mappatura dei personaggi che erano stati votati. Gli feci capire che non era il caso di fare questo tipo di accertamenti proprio per evitare di incorrere in guai giudiziari, ecco, anche perché ci aveva visto bene, le stesse indagini le stavo facendo pure io come compagnia di Torre Annunziata, come compagnia dei carabinieri. Ed era così vero che Gionta capoclan di Torre Annunziata iniziava veramente a non poterne più degli articoli quasi quotidiani di Siani. Se tu parli tutti i giorni di me su queste cose, che io faccio queste attività, comunque Apollo si può essere costretto a chiudere un negozio, perché sono mafioso, come faccio a tenere il negozio? Quello è il concetto, però lui voleva fare una cosa pulita. Perché Gionta è un tipo che piace il dialogo, non gli piaceva subito, diceva ammazziamo questa persona, cioè è un po' difficile. Una volta che diceva ammazziamo qualcuno si ammazzava, però prima di arrivare a ammazzare, cioè lui ci ragionava solo. A questo punto l'intuizione di Siani è che dietro Gionta ci siano intrecci tra la camorra con il riciclaggio e i politici, cioè un intreccio politico, affaristico, anche con l'amministrazione pubblica. Il boss, insomma, può contare su appoggi molto, molto importanti. Lo conferma il generale Sensale. Giancarlo Siani aveva capito questa triangolazione tra camorra politica e, c'è da dire, con un'autorità giudiziaria locale che rispondeva un po' a rilento a quelle che erano le esigenze di interventi operativi. Una magistratura timida e politici collusi, ma anche a un cronista attento come Siani sfugge la complessità della situazione. L'ascesa di Gionta inizia infatti a dare fastidio anche ai suoi stessi alleati della nuova famiglia. A un certo punto i suoi alleati, i Nuvoletta e Bardellino, non ci stanno più. Quel boss che sgomita va ridimensionato, merita una lezione. E la lezione è durissima. È il 26 agosto del 1984. Il massacro senza precedenti è avvenuto in questa strada di Torre Annunziata, via Castello. In pieno giorno, 15 uomini armati arrivano sotto casa di Valentino Gionta. A pochi passi si sta festeggiando una prima comunione. Sparano all'impazzata con mitra, pistole e fucili a canne mozze. 8 persone uccise, 12 feriti è il bilancio di questa spedizione di morte. Lo scopo è sancire il predominio nei traffici della zona, contesi fra i due clan che militavano sotto la medesima etichetta della nuova famiglia, sullo sfondo, il mercato della droga. Il messaggio è arrivato subito, comunque, si sapeva subito dove venivano, anche perché un mio ex amico aveva la pistola addosso, ha risposto a fuoco, rispondendo a fuoco ha sparato a un killer, si sapeva il killer chi era perché l'hanno portato a un ospedale. Il giorno dopo si era tutti quanti nel rione dicendo: ragazzi, questa è una guerra lunga e pericolosa. Siamo chiusi dentro, scendiamo solo per colpire. Da oggi in poi possiamo essere ammazzati tutti i momenti e noi possiamo ammazzare tutti i momenti. Da quel momento ci abbiamo chiuso, scendevamo solo per uccidere. Uccidiamo e andiamo a casa. Per rispondere abbiamo fatto atti morti per distruggere queste persone. Fra virgolette ci abbiamo rimboccato le maniche, anche malavitosa, cioè una cosa schifosa, però comunque l'abbiamo fatto. Ma nella guerra di Torre Annunziata non c'è solo la punizione per le ambizioni e le mire espansionistiche di Gionta e del suo clan. Sullo sfondo, infatti, c'è un altro importante, importantissimo bottino da spartirsi. Sono le centinaia di miliardi destinate alla ricostruzione del dopo terremoto del 1980 in Irpinia. Come Siani deduceva dalle delibere soprattutto del comune di Torre Annunziata. Nel frattempo Giancarlo Siani centra un obiettivo per lui importantissimo. Il quotidiano Il Mattino gli offre un contratto di sostituzione estiva. Sede di lavoro Napoli. Siani, giovane, idealista, un battitore libero, si scontra con la realtà di un grande giornale di proprietà della Democrazia Cristiana. Agli occhi del giovane cronista è come un ministero pieno di condizionamenti politici. Francesco Pinto, direttore dell'Osservatorio della Camorra, racconta così uno dei suoi sfoghi. Citava la differenza del lavoro duro ma pieno di soddisfazione da noi e quello che faceva lì, dove appena cercava di fare qualcosa in più gli veniva detto: cerca di stare tranquillo, insomma, cerca di non dare fastidio. Il 9 giugno del 1985 una svolta clamorosa, i carabinieri arrestano Valentino Gionta che si nascondeva nella tenuta dei suoi alleati Nuvoletta e il quotidiano Il Mattino affida la cronaca dell'arresto proprio a Giancarlo Siani. Ma ancora una volta Siani dimostra di sapere troppe cose e quell'articolo gli sarà fatale. Sul mattino del 10 giugno 1985 Siani scrive: dopo la strage del 26 agosto dell'anno scorso, Valentino Gionta è un personaggio scomodo anche per gli stessi alleati. La sua cattura potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra con l'altro clan di nuova famiglia, i Bardellino. Un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana. Per la Camorra è troppo. Siani ha superato ogni limite accettabile. Lo ricorda così il pentito Ferdinando Cataldo. Da quell'articolo è successo che la sera hanno parlato, non era incazzato, diceva no, non lo posso perdonare, bisogna fare qualche cosa. E subito Renzo Nuvoletto disse: si deve ammazzare a questo giornalista. Subito, dice, perché noi non possiamo da un'immagine di noi sbagliato alle persone, anche per la Sicilia, che possono pensare se i siciliani non leggono questo articolo, se Salvatore Rina o Bernardo Provenzano. E allora si parlava di dare un'elezione, cioè a livello di nelle gambe, sai, qualche cosa così. Dice no, dobbiamo ammazzarle e basta. Il clan Nuvoletta ha deciso, Giancarlo Siani deve morire. Nel suo articolo il giovane cronista ha scritto che il Nuvoletta avrebbe tradito Gionta per mettere pace nella nuova famiglia. Ma per un boss della Camorra, essere accusato di tradimento è inaccettabile. Ferdinando Cataldo, il pentito, all'epoca braccio destro di Gionta, era presente al summit in cui è stata decisa la morte di Giancarlo Siani. Quando Gionta Valentino ha saputo che volevano ammazzare i giornalisti, lui si è ribellato dicendo: attenzione, dice, io vi credo a voi che non siete degli infami, anche perché se noi ammazziamo i giornalisti, per fare un messaggio alla malavita campana o siciliana, quelle che sia. L'indagine fatta dall'Annunziata a me mi distruggono i carabinieri e polizia, perché giustamente qualunque carabinieri potrebbe prendere qualche articolo di giornale e poteva capire il momento. E Valentino non voleva questo. Dice: lasciamo perdere, questi sono giornalisti, fanno il loro lavoro, dicono un sacco di cazzate, che ci interessa a noi di ammazzare questi giornalisti? Ad un certo punto Lorenzo Nuvoletto disse: i carcerati devono fare i carcerati. Questa è una cosa che ce lo vediamo noi e noi abbiamo stabilito di ammazzarlo, basta. Dice quello che fu carcerato, che non si deve preoccupare. Quando John ha detto: cioè, ormai non posso fare niente, cioè, diciamo, fra virgolette, ha fatto come Fonso Pirale, se allora rimane, fate. Però una cosa, dice, non fate il tono annunziato, perché se succede il tono annunziato la cosa mi distrugge. A quel punto io disse: se io, essendo che sto qua, sono latitante, voglio partecipare anch'io a questo omicidio. Mancano pochi giorni alla morte di Giancarlo. Qui a Mix 24 vi stiamo raccontando la sua storia e come è potuto accadere. Mix 24, la storia. Qui a Mix 24 stiamo raccontando la storia di Giancarlo Siani. A questo punto tutto è pronto, è stato deciso il killer e anche il luogo. Giancarlo Siani infatti sarà ucciso a Napoli. La condizione posta da Valentino Gionta è stata accettata. Mentre si decide la dinamica del suo omicidio, Siani continua le sue ricerche. Sapeva che adesso doveva indagare a 360 gradi. Per tutta l'estate dell'85 Siani segue la sua pista. Probabilmente arriva anche a scoprire qualcosa di molto, molto importante. Riceve minacce, c'è un dossier di cui parla e non parla con i suoi colleghi. Siani ha capito che quello che ha scoperto è esplosivo. Non vuole scoprirsi. Forse inizia ad avere veramente paura. Ma che cosa ha scoperto Giancarlo Siani? Perché con qualcuno ne parlava, con altri invece negava? Siamo al 23 settembre dell'85. A Giancarlo Siani restano ormai poche ore. Dalla redazione del Mattino chiama Amato Lamberti, direttore dell'osservatorio sulla Camorra ed ex presidente della provincia di Napoli. Mi disse: ti devo dire una cosa. E dice: vabbè, ma la puoi dire? No, per telefono non me la posso dire, sono al Mattino, sono in redazione, non te la posso dire. Io gli dissi: scusa, proviamo ad incontrarci allora là vicino, se diciamo è una cosa urgente che mi devi dire, perché mi sembrava, come dire, che lui mi chiedesse un incontro immediato. Lui mi disse: no, siamo troppo vicino al Mattino. Ci vediamo domattina, io prima di andare al giornale vengo da te. Nessuno saprà mai cosa voleva confidare Siani, perché il piano di Nuvoletta per ucciderlo è definito. Un camorrista di Torre Annunziata, che Siani conosceva di vista, avrebbe aspettato il giovane giornalista di fronte alla redazione del Mattino. L'uomo l'avrebbe salutato e lo avrebbe abbracciato. Un calore inconsueto e ingiustificato. Scopo di quell'incontro in realtà sarebbe stato indicare ai killer la loro vittima. L'unico che potevo conoscerlo venne sotto al Mattino con una scossa, si trovava a Napoli per fatti suoi. A me che è uscito Siani dal Giancarlo dal Mattino, lui è andato: ciao Giancarlo, come sta? L'abbracciato, andiamo a prendere un caffè. Intanto da lontano hanno visto chi era Giancarlo, chi l'è, e l'hanno riconosciuto. Cioè, beh, lui. Siani è preoccupato. Secondo qualche testimone avrebbe perfino chiesto aiuto a una guardia giurata e a un poliziotto, senza però ottenere protezione. Ma questa circostanza non verrà mai chiarita del tutto. Siamo alla fine, manca poco all'omicidio. Sono quasi le 9 di sera. Intanto la città ha la febbre per il concerto di Vasco Rossi. Cosa succede? Non succede nulla. C'è più custodia, sì, per poter sempre quella. Non c'è più religione. Guarda lì, guarda là, anche televisione. Sono le 9 di sera. È finita. Al telefono abbiamo Paolo Siani, il fratello di Giancarlo. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. buongiorno. Senti, a tutti. 28 anni fa è morto Giancarlo, tu eri fratello più grande, dove eri? Io ero stavo per tornare a casa, tornai a casa con la mia auto pochi minuti dopo e ero credo la quarta o quinta macchina dopo la polizia che era ferma nel viale di casa. E quindi hai capito subito che era capitato qualcosa. Sì. Ma c'era qualche segnale, ve l'aspettavate in casa, qualcosa di del genere? Assolutamente no, nessun segnale, nessuna preoccupazione. Quindi lui vi riparava, vi teneva in fondo nascosta la sua paura, perché noi abbiamo raccontato, in fondo segnali di paura ce n'erano. Lui teneva nascosta la sua paura, ma era una paura, noi crediamo, era tuttora una paura molto controllata, non era una paura, non si aspettava, ecco, forse neanche lui una cosa del genere. Certo. Senti, comunque voi avete aspettato 18 anni per vedere in carcere Mandanti e Killer. Ma come siete sopravvissuti a questo limbo? Siamo sopravvissuti, appunto. Noi abbiamo trascorso i primi 10 anni dopo Giancarlo, veramente una situazione di abbandono, una situazione di isolamento difficile, perché dopo i primi mesi di grande attenzione... Naturalmente si è scemata l'attenzione. Si è scemata del tutto, inchieste che andavano in tutte altre direzioni, fino alla... dimenticare tutto. Ma tu lo consideri altre direzioni perché c'erano depistaggi oppure proprio c'era incuria o incapacità di fare le indagini? Io questo non ho mai capito, cioè c'erano depistaggi. C'era sicuramente una difficoltà, c'era sicuramente un momento difficile, ma era anche un'altra magistratura, un'altra polizia, certo. era un'altra epoca, ecco, non si sapeva ancora. Ecco, tu comunque hai ripreso quella bandiera e ne hai fatto un impegno continuo. Che differenza c'è nella Napoli, tra la Napoli di allora e quella di oggi dal punto di vista della Camorra e dei morti di Camorra, che restano comunque sempre tantissimi? La differenza enorme nell'antimafia che oggi c'è a Napoli e credo che sia una assoluta eccellenza napoletana. Oggi Napoli, la dico questa mattina perché i giovani studenti anticamuna di Napoli hanno festeggiato Giancarlo per l'estate della città, spontaneamente, senza che nessuno chiedesse nulla. Quindi è diventata proprio, è entrata nella cultura, la cultura della legalità è entrata nei ragazzi, tu dici? Nei ragazzi è radicalmente entrata e anche in modo probabilmente profondo. Sono molto più consapevoli quindi? Assolutamente sì, io sono stato sabato scorso al Giambattista Vico, ho raffinato con 500 ragazzi, tutti attenti, convinti, consapevoli e che avevano scelto di stare dalla parte giusta. Perché questo è uno dei lavori che fate, no? Una grande sensibilizzazione nelle scuole è l'atteggiamento principale, insomma il vostro impegno principale nelle scuole? Questo è il nostro grande impegno, la nostra grande scommessa, per far arrivare ai ragazzi le parole giuste, far capire loro che avere connivenze e non con la malavita addirittura, ma neanche con quegli atteggiamenti di zona grigia, comprare il telefonino d'occasione, quello va combattuto da quando si è bambini. Ecco, i fatti concreti nei quali si manifesta questo inizio di vicinanza. Hai fatto questo esempio del telefonino, ce ne sono altri di concreti per i ragazzi? Ma sono tanti, i ragazzi oggi sono immersi in questo mondo, per cui è anche difficile per loro discernere. E ti dico, le scommesse clandestine, giocano le scommesse alle partite, acquistano piccole cose in occasione, o quando rubano un motorino che loro cercano il cavallo di ritorno, cioè si rivolgono al boss della zona, sono molteplici. Tanti, certo, una serie continua di elementi. Tu sei presidente comunque di una fondazione che come primo obiettivo ha quello di sostenere i familiari delle vittime innocenti di Camorra. Ecco, si è meno soli in questa lotta, queste famiglie adesso sono più sostenute? Io di questo sono molto orgoglioso, perché noi siamo riusciti a mettere su una rete di protezione intorno ai familiari delle vittime, cioè speriamo che non accada mai più, ma se accade, come purtroppo accade, i familiari non sono soli oggi. Oggi è una squadra fatta da psicologi, avvocati, assistenti sociali, altre famiglie di vittime che si stringono attorno alla famiglia, la proteggono, l'aiutano per quello che si può fare, ma certamente non sono più soli come ero rimasto solo io 28 anni fa. Ecco, il 23 settembre a Napoli avete rimesso in moto l'Ameari di tuo fratello Giancarlo, che adesso è al Palazzo delle Arti di Napoli. Sono iniziative simboliche che voi pensate che abbiano qualche efficacia? Far rimettere in moto Canale di Giancarlo è fortemente simbolico per Napoli. Quella macchina è riconoscibile, le persone se la ricordano, tanta gente la vede e la riconosce. Certo, poi il film, eccetera. Il film Forte Apache l'ha ancora di più fatta conoscere, e il messaggio forte che noi vogliamo dire a tutti è che neanche le pallottole sotto le quali la Meari è rimasta colpita insieme a Giancarlo ci possono filmare. Quella Meari oggi si rimette in moto e fa il percorso che doveva fare con Giancarlo il 24 settembre 85. Ecco, senti, ti faccio ancora una domanda. Per quello che riguarda Giancarlo, tu pensi che con le rivelazioni del pentito Cataldo che abbiamo sentito in trasmissione si sia fatta definitivamente giustizia? Si è fatta giustizia sicuramente per quello che si è potuto fare, un'inchiesta che è stata ferma per 10 anni, di più non si poteva fare, però l'inchiesta di D'Alterio e altri processi venuti fuori dall'inchiesta di Giancarlo denotano un quadro molto chiaro di Don Annunziata in quegli anni, cioè connivenze fra camorra, politica e magistratura. D'Alterio l'ha dimostrato in altri processi collegati a quello di Giancarlo, per cui il quadro complessivo, chi legge le carte e chi ha subito quegli anni, riesce a farselo. Grazie, grazie. Grazie a voi. Mix 24. Sono le 10, 46 e 21 secondi. Ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, il numero degli sms 349 238 6666. Stiamo per andare in onda con la nostra rubrica sulla televisione. Parliamo di televisione e risponderà alla nostra domanda abituale il professor Giorgio Simonelli, professore di storia di televisione alla Cattolica. Allora Giorgio, sei in linea? Sì, buongiorno. Ecco a tutti. Giorgio, dov'era il canone ieri sera? Noi faremo tutti i giorni questa domanda per cercare di dare un senso profondo a questa tassa che gli italiani pagano per avere qualcosa di più, per avere un servizio pubblico. Dov'era il canone ieri sera? Io l'ho visto su Iris, una rete digitale terrestre Mediaset, però free, non a pagamento, perché ieri sera Iris trasmetteva un film di Pedro Almodovar, Volver, ma era soltanto uno dei tanti film che dall'inizio di settembre Iris trasmette tutti i lunedì. E qui mi sembra che ci sia qualcosa del servizio pubblico, adesso senza fare nostalgia, ma facendo il mio mestiere di storico, questo non può non ricordare quello che è stato un po' il grande lavoro del servizio pubblico negli anni 60, 70 e 80, quando la divulgazione della cultura cinematografica è stato uno dei cavalli di battaglia della RAI. Penso alla RAI 2 di Fichera, ai grandi cicli organizzati da Fava e Pintus e presentati. Ora, non è che ieri su IR ci fossero queste vette, ci sono però una serie di film senza presentazione che ricostruiscono il percorso di un autore cinematografico, una cosa mi sembra importante. Tanto c'era questo appuntamento del lunedì, il famoso lunedì film di Rai, forse tu lo conosci bene. Certo, naturalmente. Bene. Naturalmente. Mixer nacque, ecco. Il tuo Mixer nacque proprio come alternativa alle grandi serate. Esatto, il 15 aprile dell'80, sì. Però c'è un po' questa atmosfera, no? Di usare il film in prima serata. Tra l'altro ho visto che è tornato un po' il film in prima serata. Rai 1 ha fatto Abemus Papam, Rai 3 ha fatto nell'estate una serie di film italiani. Ecco, scusami, io ti vorrei solo interrompere su un punto. È vero che il cinema è abbastanza sparito dalle prime serate della Rai e non solo, però è anche vero che l'esplosione dei canali tematici, uno per tutti, Rai Movie, che fa un lavoro invece egregio di racconto del cinema riunito per cicli, con rubriche adatte, cioè la polverizzazione dell'offerta rende molto difficile anche questo. Forse probabilmente il problema è investire di più su questi canali tematici che hanno il cinema al centro della loro programmazione, questo per quello che riguarda naturalmente il servizio pubblico, però il lavoro che si fa lì è un lavoro importante. Questo questo sicuramente, ma a me è piaciuta di Iris soprattutto questa cosa, che a volte fa anche Rai Movie, intendiamoci, il film di uno stesso autore, proprio come si faceva. Sì, i grandi cicli d'autore. Perché così il film non è un tappabuchi, non è un richiamo di audience, ma è una tappa che ogni settimana... Di un percorso di divulgazione culturale. E di un percorso, la ricostruzione di un percorso di un autore, che insomma, certo, è una bella cosa, no? Che ci sia un po' di autorialità anche nella televisione. Perfetto, ti ringrazio molto, grazie. Ci rivedremo domani, Giorgio. Intanto io al telefono qualcuno che invece del prestigio da dare alla RAI attraverso RAI Cinema, che era coproduttore, l'ha dato Gianfranco Rosi, 49 anni, italo-americano, nato ad Asmara in Eritrea, il primo documentarista della storia che vince il Leone d'Oro a Venezia. Ecco, buongiorno Rosi. Buongiorno. Ecco. Italo-americano è un po' troppo. È troppo? Diciamo, basta italo? Basta italo? Doppia cittadinanza. Va bene, allora doppia cittadinanza. Presa soltanto il passaporto americano qualche anno fa. Vabbè, e allora correggiamo gli errori come sempre. Volevo dire, ma questa straordinaria vittoria del Leone d'Oro a Venezia per un documentario, che cosa vuol dire? Vuol dire un colpo di genio di Bertolucci o vuol dire una crisi del cinema o vuol dire ancora un'altra cosa? Una grande commissione di genere alla quale Rai Cinema ha partecipato come coproduttore. Ma io penso che sia così tanti momenti, un momento giusto che si sono poi così sovrapposti tanti momenti. È stata una grande segno di coraggio sicuramente da parte di Barbera quando ha deciso di mettersi in competizione, grande coraggio da parte del maestro Bertolucci quando hanno deciso con la giuria di dare questo premio. Sì, certo, io dico Bertolucci presidente. Erano 9 giurati. Sì, sì, naturalmente, questo è molto importante perché erano rappresentate tante sensibilità diverse. Sì, dal Giappone, la Cina, l'America, la Germania, sì, la Francia. E l'emozione? Cosa significa questa vittoria di un documentario? È direttamente proporzionale alla sorpresa. Ecco. Perché arrivare in concorso era una meta, un punto d'arrivo che ho iniziato 20 anni fa con il mio documentario Boatman, poi Birossi Level e poi Il Sicario, e poi questo ultimo qui. Ho fatto solo 4 film, non sono tanti film che ho fatto, però c'è un percorso molto preciso. Il punto d'arrivo è sempre stato arrivare a un concorso importante come Venezia o altri festival in competizione con film di finzione, la differenza tra il documentario e la finzione, anche se poi la differenza esiste nel modo di lavorare, esiste certo, nel modo di ma sono destinati realtà, sono destinati sono destinati a contaminarsi sempre di più la finzione e la realtà attraverso il documentario, oppure è stato un caso eccezionale? Io, anche se costretto, ma sicuramente la differenza tra il documentario e la finzione, però non amo fare una distinzione, soprattutto a livello teorico, tra il cinema di finzione e il documentario. Io penso che quando siamo davanti a un grande schermo e c'è una storia, c'è una drammaturgia, c'è cinema, ecco, la parola che accomuna il documentario e la finzione è il cinema. Il cinema è guardare la realtà e filmare la realtà e far sì che questa realtà si trasformi in qualcos'altro, e questo, in questo modo il documentario può diventare narrazione, storia e cinema. Ecco, ma è una storia. È molto duro in Italia fare documentari? Ma io penso, sono sicurissimo. Cioè, se ne fatti solo quattro in tanti anni. Solo quattro in tanti anni. Solo quattro in tanti anni vuol dire che non è facilissimo. Ma questo è un po' il mio modo di lavorare. Ho bisogno di tempo, ho bisogno di avvicinarmi alle storie, ai personaggi, ho bisogno di incontrare dei personaggi, ho bisogno di innamorarmi di una storia, dei personaggi. Quindi per me è quasi un modo di vita fare il documentario. Io non so quando inizio un film e non so quando lo finisco. Questa volta è stato diverso perché avevo una produzione per la prima volta alle spalle, e quindi avendo una produzione c'è anche un'esigenza, c'è un fine, no? Dice adesso ho finito. Probabilmente da solo sarei andato avanti altri 2 anni. Allora, per fortuna che c'era una produzione, che mette un limite. Ecco, ma la domanda era E secondo lei si sta muovendo qualcosa nel mondo del documentario, che è sempre stato un problema in giro per il mondo? I documentari hanno degli spazi, anche dei palinsesti di grandissimo prestigio, di prime serate, e invece in Italia la cosa è molto molto difficile, se si esclude il lavoro meritorio fatto da Piero Angela con i documentari scientifici, ma è usati in modo complessivo, anche un racconto fatto anche di servizi, non solo di documentari. Beh, io penso ci sono grandissimi registi di talento che fanno documentario e che poi sono passati anche alla finzione, da certo. Andrea Seghe, Rossetto, Pietro Marcello sta lavorando adesso in un documentario. Quindi, no, ma dicevo in Italia, sente che si muove qualcosa? Io, secondo me sì, si sta muovendo qualcosa, siamo costretti anche a vedere che il pubblico, forse anche la necessità di vedere delle storie raccontate in un altro modo, il fatto che il film sia primo o secondo in classifica in Italia nella media coppie è importante. Io ho fatto adesso un giro. Siamo in chiusura. Sì, ho visto l'entusiasmo della gente quando usciva dal cinema. Quindi... Grazie tanto e tanti auguri per il prossimo lavoro. Noi ci vediamo domani alle 9 con Mix 24. Grazie, arrivederci e buon proseguimento.